Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Prima ci vogliono la valutazione d'impatto ambientale, uno studio idrogeologico e uno idrobiologico. Poi sì, a quel punto potete cercare di farvi assegnare quella cascatella o quel salto d'acqua che avete individuato come sito per un impianto mini idroelettrico. Si tratta di una tecnologia, ne abbiamo già parlato, che consente di sfruttare piccoli salti d'acqua anche di soli 3 o 4 metri come quelli che si trovano lungo i canali di irrigazione. È un modo per produrre energia idroelettrica con piccole installazioni ed è veramente difficile immaginare qualcosa di più pulito. In provincia di Lodi c'è un caso virtuoso di cui vi abbiamo raccontato alcune settimane fa. Lungo un antico canale di irrigazione sono stati installati infatti 6 impianti mini idroelettrici per un totale di circa 12 megawatt che funzionano, pensate, 8.000 ore all'anno, quindi praticamente il massimo. In linea con me c'è Ettore Fanfani, che è direttore del consorzio Muzza Bassa Lodigiana, che gestisce questi 6 impianti e ne sta realizzando degli altri. Buonasera Fanfani e bentornato a Mr. Kilowatt. Buonasera a lei. Allora Fanfani, la procedura autorizzativa per un impianto mini idroelettrico in quanto fonte rinnovabile ricade all'interno dell'autorizzazione unica di cui abbiamo già parlato. Poi però ogni rinnovabile ha i suoi punti critici. Nel caso del mini idroelettrico quali sono? Beh, possiamo classificarli in 4 categorie sostanzialmente, no? Gli aspetti ambientali, che sono riconducibili all'impatto che le opere hanno sull'area circostante, e questo è evidente che il tipo di vincolo che c'è sull'area, per esempio un parco naturale, cambia sostanzialmente la questione di carattere ambientale. Comunque qualche opera provvisionale, qualche opera di regolazione e le stesse opere civili che sono connesse la costruzione della centrale idroelettrica, un certo impatto sicuramente lo danno. Lo danno, no? E bisogna quindi provvedere con delle ambientalizzazioni, certo, con delle schermature di verde, con delle ripiantumazioni, eccetera. Poi ci sono dei problemi autorizzativi di carattere idrologico ed idraulico, perché soprattutto se tu costruisci su un fiume e non su un canale, no? In genere prima di avere l'assegnazione della concessione ti chiedono una serie di indagini e di studi di carattere idrologico ed idraulico che riguardano per esempio sapere i deflussi di magra e di piena, no? Che è una cosa, no? È chiaro che se il canale è artificiale è molto più facile, è diverso. Se è un fiume abbastanza grande le notizie si reperiscono, diciamo, con una certa facilità. Il problema diventa quando il corso d'acqua è un corso minore naturale dove mai nessuno ha fatto degli studi di natura idrologica. D'accordo. Poi ci sono quelli problemi idrobiologici che sono riconducibili alla progettazione della scala di rimonta dei pesci, che richiedono un particolare studio sulle specie ittiche che ci sono nella zona. La scala di rimonta dei pesci è una struttura che serve a far sì che i pesci possano superare dei dislivelli. Esatto, dislivelli già esistenti, no? Esatto. Ecco, qui infatti viene fuori uno, diciamo, dei paradossi forse, diciamo, della normativa che o meglio della procedura autorizzativa che riguarda il mini idroelettrico. Cioè, per esempio, in un caso di questo genere ci si trova di fronte ad una cascatella di qualche metro, lì non c'è un modo per i pesci per risalirla, ma se lei deve costruire l'impianto idroelettrico è costretto a farla. Esatto, proprio così. E perché voi vi lamentate, poveri pesci? Beh, noi ci lamentiamo, per carità, può darsi, io dico, sono scale sicuramente necessarie, ma qua è tutto un discorso dove si potrebbe discutere, eccetera, no? Però io dico, se sono necessarie, la domanda è: perché a carico di questa nuova iniziativa e solamente di questa nuova iniziativa? Ecco, questo è il problema. Sì, non si capisce perché debbano andare nel bilancio economico di chi realizza gli impianti idroelettrici se quello era un'opera già da fare. Esatto, anche perché poi immagino che non è un costo da poco, ci credo. Tutt'altro. E no. Anche perché poi capiterà che magari ci sia una scala di risalita in mezzo a niente, cioè magari a monte e a valle non ci sono e quindi comunque non serve a nessuno. Guardi, le dirò, è un caso molto frequente questo. Immaginavo. Senta, mi pare che un altro problema riguardi, come dire, la consecutio temporum delle autorizzazioni nel momento in cui si vuole ottenere l'assegnazione di un sito. Sì, certo, può succedere per avere l'assegnazione di un sito, come io credo che sia giusto, no? Tutti possono fare domanda, e può succedere, è successo, io conosco molti casi dove ci sono più domande contemporanee, quindi si va in concorrenza. In concorrenza però che cosa succede? Che prima ancora di avere l'assegnazione, no, sia le valutazioni di carattere ambientale, che poi sarebbe il VIA, o quantomeno tutta la procedura per avere l'esclusione dal VIA, gli studi di carattere idraulico e idrologico e gli studi di carattere idrobiologico comunque vengono richiesti, e questo ha un costo che il concessionario, ovvero il diciamo candidato concessionario, deve sostenere, senza sapere che se potrà fare assegnazione sulla concessione idroelettrica. Cioè può essere che insomma in 5 partecipino per lo stesso sito, tutti e 5 facciano le stesse indagini, sostengano una spesa quindi quintupla, e magari 4 di questi, anzi per forza, non si verranno assegnati. 4 di questi vengono scartati. Ecco, d'accordo. Ecco. Questo può succedere. Questo può succedere, insomma, è abbastanza assurdo. Si potrebbe chiedere questo tipo di informazioni dopo aver assegnato il sito, insomma. Esatto. D'accordo, d'accordo. Senta, complessivamente qual è l'impatto di questi costi burocratici sul costo complessivo di realizzazione di un impianto? Allora, guardi, i costi burocratici in generale dipende molto da che cosa costa un impianto, però io dico che sicuramente supera il 15%. Se poi lei aggiunge anche il costo di tutte le opere connesse a queste, diciamo, ricerche, sicuramente sì, supera anche il 30% del costo complessivo dell'impianto. Ecco, questo è un dato purtroppo molto ricorrente nel settore delle rinnovabili, queste sorte di misure di compensazione che sono una delle ragioni per cui gli incentivi sono i più alti o tra i più alti al mondo. Insomma, credo che lei sarà d'accordo con me se lanciamo una campagna meno burocrazia, meno incentivi. Sì, a questo punto sarebbe quasi più logico, in sostanza, no? Grazie Fanfani. Grazie a lei. Bene, anche per oggi abbiamo concluso, l'appuntamento è per lunedì, parleremo dell'eolico, della normativa e dell'iter autorizzativo eolico che è al centro di molti dibattiti di questi tempi. Buon fine settimana a tutti.